Bella la sigla, vero? La mia prima intervista in TV per il programma Pop Cult. Un singolo in programmazione sulle radio nazionali ha un po' di successo, per quel che ne è rimasto in Italia, della musica emergente. Il look made English Taiwan, perfetto per l'occasione, con cravattino Franz Ferdinand rosso. Tutto ok, tranne una cosa, non sono una star. Avevo passato tutta la mattina a leggere un articolo sulla biografia dei Metallica. Alcol, droga, sesso, risse. Che depressione. Cazzo, un gruppo del genere è destinato a diventare famoso. È una statistica. Tutti i personaggi di rilievo hanno avuto vite strampalate e morte ancora più pazzesche, a volte nel mistero. Intrighi con la CIA, motel, prostitute, overdose. Comunque, niente della mia vita compete minimamente con l'assassinio di John Lennon o con la morte di Bruce Lee. La sigla sta per finire. Ora li classifico ufficiali e poi tocca a me. Non ci sono neanche quelli del mio gruppo che di solito in questi casi mi tirano su. Non gli hanno dato le ferie. Cioè, precari sì, ma non liberi. Allora che cazzo di precariato è? Faccio mentalmente un elenco di tutte le mie malefatte. A 13 anni faccio un incidente con un motorino, non mio, e non l'ho mai pagato. A 14 faccio finta di rubare delle penne dal supermercato, ma solo per farmi beccare dalla sicurezza e fargli fare la figura del coglione. Volo della macchina mai pagato, qualche tiro di canna, una sega in classe alle medie. Sorpasso a sinistra a semaforo rosso davanti ai carabinieri con inseguimento. Ce l'avevo quasi fatta, alla fine impietositi dalla mia faccia mi hanno lasciato andare. Li ho supplicati, ma niente. Su ragazzo, capita di fare qualche bravata, se ti togliamo la patente ora a 18 anni ti roviniamo, avevano detto. Ma perché non sono andato con le solite fantastiche belle e cattive compagnie? Invece di rimanere a casa a studiare, tanto non cambiamo un cazzo. Sicuramente non sarei diventato un re del crimine, ma un buon palo, un driver, quello sì. Non ho neanche avuto il coraggio di spacciare un po' di fumo, che tanto lo fanno tutti, atteggiandosi al re del mercato della droga colombiano per 50 grammi venduti in condominio. Una bella rissa da raccontare? Mai. Mi ha guardato male, giù cazzotti. Una notte in cella per rissa aggravata e poi fuori con la barba incolta e puzzo a raccontare tutto al bar fra gli generali degli amici e colazione pagata. Niente. L'inflessione romana? L'ho dovuta imparare per darmi un po' di tono nelle guerriglie urbane. Ho fatto un corso serale con Mario il camionista, un tipo di Tor Bella Monaca che, impietosito da anni di soprusi e umiliazioni a persone educate per bene, così per gioco con la sua associazione culturale Te Sfonno aveva aperto dei corsi di romanità, virgola, teoria e pratica. Sapete che dovete fare? Fatemi una bella padellata dei cazzi vostri. La classe era di una ventina di persone, c'era un po' di tutto, avvocati, ragionieri, architetti, dottori. Mario ricreava delle situazioni tipo e ci insegnava come reagire, come rapportarci. Esempio, un incidente con la macchina. Scendero mano d'occhio insultandovi. Tu subito ricambi con offese ai suoi defunti, agitando in maniera vistosa braccia e mani, urlando, in modo da attirare persone, perché Mario diceva sempre, più persone che guardano e più persone che parleranno di te. Questo diceva Mario. Esempio 2. Uno ti passa davanti alle poste colpendoti con la spalla. Reazione una buona, ma di scarsa incidenza di show. Oh, ma che cazzo stai a fa'? Reazione 2, effetto assicurato. Lo fermi con la mano, sulla sua spalla destra, e mentre si gira gli dai una testata in pieno volto, seguita da un calcio alle palle. In tutto questo però ricordare sempre di mettere in tasca il bollettino prima da pagare, che poi si stropiccia e non te lo passano. Mario era un grande. Cazzo, che infanzia felice che ho avuto. Mi viene da piangere. Se un giorno avrò un figlio gli chiederò: scegli cosa vuoi fare da grande. Vuoi essere una persona normale, con un lavoro normalissimo? Scegli questo? Allora se sì, dimmi cosa vuoi per Natale. Vuoi essere una star? Allora vai di là, prendi una cinta di cuoio e inizi a picchiarti. Quando hai finito torna, che stanno per iniziare i cartoni animati. Non sarò mai una star.